2024. Vincitore dello European Podcast Award, il premio ai migliori podcast europei. Zero, due, quattro. 2024 di Enrico Pagliarini. Ed ecco a voi la puntata del 14 e 15 dicembre 2013. Benvenuti o bentornati a 2024. Io sono Enrico Pagliarini, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Questo è il programma che si occupa di tecnologia di Radio 24. Ogni settimana cerchiamo di capire e comprendere come la tecnologia ci cambia la vita, come cambia il lavoro, come cambia le industrie. Oggi parleremo anche di un'applicazione industriale estremamente interessante. Tra poco sentiremo la voce di Barack Obama e vi spiegheremo perché. Magari qualcuno ha già visto un video molto molto bello per soprattutto chi si occupa di software. Ma partiamo e parliamo della serie di provvedimenti che sono stati proposti o approvati. Alcuni solo proposti, quindi non è detto che poi diventeranno legge, altri approvati in questi giorni dal governo, dal Parlamento, dall'autorità per le comunicazioni, da Agicom. Però molti, se non tutti, gli esperti dell'economia digitale sono fortemente critici. Chi segue Twitter o chi segue i social network in generale avrà visto il vortice di critiche che sono state sollevate, ma vediamo alcune delle novità. Alcune sono anche interessanti, oggettivamente. La Commissione Bilancio della Camera ha approvato un emendamento alla legge di stabilità che introduce in Italia, prima in Europa, e quando siamo brivi, quando siamo primi o siamo bravissimi oppure no. Allora, ha introdotto, vorrebbe introdurre, perché poi dovrà essere approvato dall'Aula, la cosiddetta web tax. Secondo la proposta, che dovrà poi essere approvata appunto dalla Camera e dai due rami del Parlamento, le aziende che operano su internet dovranno avere partita IVA italiana per vendere prodotti o servizi nel nostro paese. In questo modo si tenta di evitare che soprattutto le grandi multinazionali usino sedi estere nell'Unione Europea, tipicamente in Irlanda o in altri stati a bassa fiscalità, per vendere in Italia senza pagare le relative tasse nel nostro paese. Ed effettivamente il problema esiste e il problema andrebbe risolto, però dipende dai punti di vista, forse non in questo modo. Allora, questa norma, molti dicono che potrebbe essere in contrasto con le regole europee ed esporre l'Italia ad una procedura di infrazione da parte di Bruxelles, che sarebbe naturalmente molto molto grave. Ma alcuni dicono, e io sono d'accordo, sarebbe invece più opportuno ed efficace spingere verso un'armonizzazione fiscale nei paesi europei, quindi cercare di concentrare le risorse e le forze a Bruxelles piuttosto che a Roma, facendo provvedimenti che riguardano solo il nostro paese, che poi magari sono in contrasto con le normative europee e ci becchiamo magari una bella multa. Pensate poi, a proposito di questa, se questo diventerà legge, pensate poi se ogni Stato facesse la stessa cosa. Un'azienda italiana dovrebbe aprire posizioni fiscali negli altri 27 Stati per poter vendere servizi o prodotti. Vi invito a leggere i molti articoli che sono usciti in questi giorni su internet per farvi un'idea e per capire come stanno le cose. Allora, altra novità che riguarda internet è contenuta nel disegno di legge varato in Consiglio dei Ministri. I motori di ricerca, e naturalmente qui si parla prevalentemente di Google, visto che è il 90% del mercato, o forse di più del 90% del mercato, toglierei forse, allora dovranno accordarsi con gli editori prima di utilizzare i loro contenuti. Parliamo soprattutto di testi giornalistici, quindi di notizie, In mancanza di un accordo, le condizioni economiche verranno stabilite dall'autorità per le comunicazioni. Naturalmente, in alternativa, il motore di ricerca potrebbe pure decidere di non indicizzare le pagine, e a questo punto un editore dovrà valutare quale potrebbe essere il danno subito, perché sapete che molto, molto del traffico che arriva sui siti internet in generale arriva tramite ricerche effettuate su Google o comunque in generale sui motori di ricerca. Allora, è aperto un dibattito in Europa, molto interessante questo, per stabilire se un link rappresenta un uso di contenuto per il quale sia dovuto un corrispettivo, o sia semplicemente simile ad una citazione consentita invece dalla legge per la libertà di circolazione delle idee. c'è un dibattito molto, molto acceso. Poi tutt'altro capitolo è invece ad esempio la pagina di Google News, e lì non ci sono solo dei link ma ci sono proprio dei contenuti, quindi in quel caso naturalmente questo, questo provvedimento di legge sarebbe molto più giustificato. Allora, sapete che c'è un precedente, perché in Francia, dopo molti mesi di trattative e di dibattito, all'inizio di quest'anno Google e gli editori hanno trovato un accordo secondo cui, in cambio dell'utilizzo degli articoli dei giornali online, Google finanzia con 60 milioni di euro un fondo per lo sviluppo dell'informazione online. Altra novità, sempre approvata dal governo, diciamo proposta, e poi bisognerà vedere se passerà il vaglio dell'Aula, per favorire una maggiore diffusione della lettura dei libri cartacei, è riconosciuta una detrazione fiscale del 19% sulle spese sostenute nel corso dell'anno solare per l'acquisto di libri per un importo massimo di 2.000 euro. Qua molti critici fanno notare che più che favorire la lettura si favoriscano i produttori di libri di carta, quindi gli editori che ancora non hanno compreso l'evoluzione tecnologica per favorire la lettura. Ad esempio, c'è chi dice bisognerebbe favorire anche gli ebook. Su Twitter Carlo Alberto Carnevale Maffè, che insegna alla Bocconi ed è molto attivo sui social network, scrive: lo Stato ti detrae 2.000 euro se compri Fabio Volo su carta e ti tassa al 22% se compri Manzoni su ebook. Giusto per far capire che, ad esempio, a proposito di IVA, gli ebook sono svantaggiati da un'IVA che è uguale a tutto il resto, al 22%, rispetto a quella agevolata dei libri di carta. Una cosa molto interessante, poi se attuata in modo semplice sarà probabilmente molto efficace, e quindi questo è positivo, diciamo potenzialmente positiva, la disposizione per cui, per promuovere servizi di connettività digitale ad alta velocità, almeno 30 megabit, il provvedimento chiamato Destinazione Italia prevede per le PMI, le piccole e medie imprese, una detrazione del 65% per un importo massimo di 20.000 euro all'anno, quindi una bella cifra, per gli interventi di rete fissa o mobile. Vedremo poi come sarà formulato il decreto attuativo, ma sicuramente l'idea è buona. Allora, c'è poi il capitolo diritto d'autore su internet. L'autorità per le comunicazioni, l'AGCOM, ha approvato definitivamente un regolamento che entrerà in vigore alla fine di marzo 2014, col quale l'autorità si attribuisce poteri che finora erano riservati ad un giudice. Allora, c'è chi dice che questo è molto grave, non ho competenze io per giudicare questo, quello che è avvenuto. AGCOM comunque potrà ordinare l'inibizione di un contenuto su internet o addirittura la chiusura di un sito web, dove naturalmente ci sono contenuti che ledono il diritto d'autore. E naturalmente dicono gli esperti: beh, dove la situazione è o bianco o nero, quindi se pubblico in palese contrasto con le norme un contenuto coperto dal diritto d'autore, ok, lì è chiarissimo, non c'è nessuno ha nulla da dire. Ma il problema sono tutte le varianze, quindi tutte le aree grigie, dove si deve discutere, dove fino ad oggi si va in tribunale, c'è un giudice che deve decidere. Comunque su questo regolamento che è stato approvato dall'autorità per le comunicazioni sono annunciati ricorsi, quindi vedremo che cosa succederà nelle prossime settimane o nei prossimi mesi. Non parliamo, perché ne parliamo verso la fine della trasmissione, di un emendamento alla legge di stabilità sul compenso per copia privata che confermerebbe gli aumenti richiesti. Ricordiamo che questo è un costo, diciamo il compenso per copia privata è un costo che grava su tutti i dispositivi elettronici che possano riprodurre file multimediali, quindi direi quasi tutti, ed è una cosa che tutti coloro che comprano queste cose, smartphone, tablet, computer, eccetera, eccetera, pagano, magari anche senza dover nulla agli autori, perché magari non copiano nessuna canzone, nessun film, eccetera, eccetera, ma ne parleremo alla fine della trasmissione. Allora, il tratto che lega questi provvedimenti potremmo dire che è una, da un lato, una profonda ignoranza dell'economia digitale, della tecnologia, una diffusa incompetenza o, ancor peggio in alcuni casi, una, diciamo, sospetta sottomissione ad alcune lobby che curano giustamente i propri interessi, ma chi si occupa di politica deve cercare di mettere in equilibrio i diversi interessi e non far spostare la bilancia solo da una parte. Poi c'è chi dice, anche su Twitter molti hanno scritto, ci si stupisce che la gente vada in piazza a protestare o protesti in modo molto vivace sui social network. Adesso vi faccio sentire quello che ha detto Barack Obama questa settimana, che si è schierato a favore di una campagna, e anche in Italia c'è chi si adopera per favorire la diffusione della tecnologia, ma soprattutto per favorire gli studenti che studiano la cosiddetta computer science, quindi che si occupano di informatica. Una cosa molto importante non solo per, dice Obama, per il vostro futuro, ma per il futuro del nostro paese. Hi everybody. This week I'm proud to join the students, teachers, businesses and non-profit organizations taking big new steps to support computer science. Questa settimana sono orgoglioso di essere a fianco di studenti, insegnanti, imprese e organizzazioni no profit che si stanno dando da fare per sostenere l'informatica nelle scuole americane. Learning these skills isn't just important for your future. It's important for our country's future. L'apprendimento di queste competenze non è solo importante per il vostro futuro, è importante per il futuro del nostro paese. Se vogliamo che l'America sia sempre un paese all'avanguardia, abbiamo bisogno di giovani americani come voi, in grado di padroneggiare gli strumenti e le tecnologie che cambieranno il nostro modo di fare pressoché ogni cosa. È per questo che vi chiedo di impegnarvi in questa sfida. Don't just buy a new video game, make one. Don't just download the latest app, help design it. Don't just play on your phone program. Non comprate semplicemente un nuovo videogioco. Fatene uno. Non scaricate l'ultima app, ma contribuite a progettarla. Non giocate con il vostro telefono. Programmatelo. Nessuno è nato esperto di informatica, ma con un po' di duro lavoro, di matematica e scienze, chiunque può diventarlo. Questa settimana è l'occasione per provarci. E non permettete a nessuno di dirvi che non potete. And don't let anyone tell you you can't. Whether you're a young man or a young woman, whether you live in a city or a rural area, computers are going to be a big. Che voi siate un giovane uomo o una giovane donna, che viviate in città o in campagna, i computer occupano un posto importante nella vostra vita. E se siete disposti a lavorare e a studiare sodo, sarete voi a dare forma al vostro futuro. And if you're willing to work and study hard, that future is yours to shape. Thanks everybody. E che cosa aggiungere? Direi nulla. Adesso ci sono alcune notizie in breve della settimana. Digital News. Iniziamo da una notizia che riguarda il settore aereo e noi come passeggeri. Anche le autorità europee hanno dato il via libera per tenere accesi in mobilità offline, quindi disconnessi dalla rete, ma comunque accesi, smartphone, tablet e altri dispositivi elettronici anche durante le fasi di rullaggio, decollo e atterraggio. Nel giro di qualche settimana le compagnie dovrebbero adeguare le proprie procedure di sicurezza tenendo conto di questa novità. Quindi se siamo seduti sull'aereo e stiamo leggendo prima della partenza magari un libro sul nostro tablet, non dovremo più spegnerlo durante la fase di rullaggio quando si va verso la pista e il decollo e naturalmente anche durante l'atterraggio, ma potremo continuare a leggere per tutta la durata del volo. YouTube ha annunciato che gli utenti iscritti potranno trasmettere da ora in live streaming, quindi in diretta tramite la piattaforma. Basta avere una videocamera, un computer collegato alla rete internet e il gioco è fatto. Ci sono vari servizi con i quali si può andare in onda su internet, tra i tanti citiamo, oltre che la novità annunciata da YouTube, anche streamago.tv di Tiscali. Spotify ha esteso anche ai tablet con sistema operativo iOS e Android, oltre che ai computer, la possibilità di ascoltare brani a piacere intervallati da alcuni spot pubblicitari. Prima non si poteva fare. È stato anche eliminato il limite di 10 ore per il profilo gratuito. Per quanto riguarda gli smartphone, c'è libertà di scelta delle canzoni, ma un po' più limitata rispetto ai tablet. Comunque il profilo gratuito è sicuramente più esteso rispetto ad oggi. Adesso c'è una notizia che riguarda il settore dei televisori. Dopo che Panasonic ha concentrato le risorse sullo sviluppo delle tecnologie OLED, anche Samsung ha riorganizzato la propria società che si occupa di display e ha unificato lo sviluppo di OLED e LCD. Le due tecnologie verranno ora integrate in un'unica catena commerciale. C'è chi dice che il 2014 sarà l'anno delle TV OLED, quindi c'è chi dice che vedremo prodotti a prezzi più popolari. Abbiamo già visto alcuni prodotti uscire sul mercato anche in Italia, ma certamente non possiamo parlare di prezzi popolari, ma siamo solo all'inizio di questa nuova tecnologia che sarà la tecnologia del futuro per la visione sui televisori. Parliamo di sistemi operativi per smartphone e anche tablet. Naturalmente sappiamo che molti produttori sono preoccupati dalla dipendenza che hanno oramai da Android e da Google. Sapete che Android rappresenta circa l'80% del mercato, quindi diciamo che l'80% del mercato, a parte Motorola, non è integrato verticalmente se usa Android, quindi produce hardware ma deve usare il software di Google, mentre invece Apple, Microsoft, visto che ha comprato Nokia, e anche BlackBerry sono i principali produttori, anche se due di questi hanno quote di mercato molto, molto basse, integrati verticalmente. Allora, in molti produttori che fanno smartphone e tablet con Android stanno guardando sistemi operativi alternativi. Abbiamo parlato la settimana scorsa di Firefox OS ed è notizia di questa settimana che Canonical, che produce Ubuntu, che è una nota versione, no? Una nota distribuzione di Linux, ha firmato il primo accordo con un grande produttore per portare sul mercato nel 2014 uno smartphone con Ubuntu Touch, che è un sistema operativo per smartphone derivato appunto da Ubuntu. Adesso ci fermiamo per un minuto, questo è 2024, a tra poco. 2024 è anche su Facebook e Twitter. Cerca 2024 o Enrico Pagliarini. 2024. Adesso parliamo di stampa 3D, ma in ambito industriale, quindi ci spostiamo dall'ambito di cui abbiamo parlato altre volte, quello più casalingo, small office artigianale, diciamo così. In questo fine settimana Avio Aero, che fa parte del gruppo General Electric, si occupa di motori aeronautici, è un'azienda piemontese di Torino, ha inaugurato a Cameri, in provincia di Torino, un sistema produttivo che fa parte appunto di quel mega trend che si chiama stampa 3D. È già da qualche mese che il sistema è in funzione e per saperne di più saluto Giorgio Abrate, che è il responsabile dell'ingegneria di Avio Aero. Benvenuto a 2024, grazie per essere con noi. Buongiorno, buongiorno. Io ho detto che stiamo parlando di stampa 3D, ma spieghiamo in che cosa consiste questa tecnologia, quali sono i vantaggi, qual è l'innovazione e per farci che cosa? Noi chiamiamo questa tecnologia, la chiamiamo additive manufacturing, è comunemente conosciuta come stampa 3D. Il termine additive manufacturing secondo me è chiaro, è più chiaro, perché fa capire che si sta parlando di un processo additivo. Nelle tecnologie tradizionali di fabbricazione meccanica soprattutto, si parte normalmente da un grezzo, da un semilavorato, da una barra, da una billetta, per poi asportare tramite fresatura il materiale in eccesso ed arrivare quindi al prodotto finito. Quindi si va per sottrazione. Cioè si va per sottrazione, perfetto. Esatto. In campo aeronautico, quello che noi chiamiamo il rapporto buy to fly, cioè quanto dobbiamo comprare di materiale per far volare un chilogrammo, ecco, questo rapporto arriva a fino a 20, cioè quindi 20 chilogrammi che devono essere comprati sul mercato dei materiali per far volare poi un chilogrammo. Quindi ecco, diciamo che in questo caso la sottrazione è molto forte, cioè devo sottrarre 19 kg per portarla esatto, una. Esatto. I processi invece di additive manufacturing o di stampa 3D sono basati su di un paradigma completamente diverso. Cioè la logica è sostanzialmente che qualunque oggetto che noi vogliamo fabbricare, che chiaramente è tridimensionale, può essere visto come l'impilamento di una serie di strati bidimensionali, il cui spessore è di qualche decina di micron. Cioè, quindi molto, parliamo molto di milionesi di millimetro, per intenderci. Cioè, di che materiali stiamo parlando in questo caso? Metalli? Stiamo parlando di metalli. Nella stampa 3D, che è quella, diciamo, chiamiamola consumer, che è molto diffusa, si parla normalmente di nylon, di materiali plastici, no? Con cui si fanno modelli, si fanno mock-up, repliche, diciamo, mentre invece noi parliamo di materiali metallici e anche materiali metallici molto evoluti, che sono quelli che si usano in aeronautica, quindi leghe a base nickel, acciai molto sofisticati per impieghi nelle temperature, nelle condizioni di stress meccanico dei motori aeronautici. Poi le chiedo quali sono i vantaggi di questo processo produttivo, ma sempre rimanendo al processo produttivo, significa che voi avete delle macchine con degli iniettori che appunto fanno tanti passaggi e quindi stendono questo sottile strato di metallo. Come funziona il sistema? Sì, funziona che si parte dalla polvere del materiale base, che deve essere o comprata o autoprodotta, e si costruiscono degli strati successivi fondendo questa polvere con una fonte di energia puntiforme, che può essere o un laser oppure un fascio di elettroni. Quindi questo laser, questo fascio di elettroni, inizialmente disegna il contorno sul primo strato di polvere, poi fonde l'interno e, avendo finito il primo strato, si va avanti così, facendo ancora lo stesso processo n volte fino a completare il pezzo 3D. Come dicevo prima, il pezzo viene visto come un impilamento di strati bidimensionali. Sì, è un po' come, ne so, una risma di fogli. Alla fine, esatto, il risultato è un parallelepipedo piuttosto grosso, ma ci sono tanti fogli impilati l'uno sull'altro. Esatto, e lei immagini di poter ritagliare ciascun foglio indipendentemente, e lo fa o con un raggio laser o con un fascio di elettroni. Sì. Senta, per far cosa? Cioè, voi utilizzate questa tecnologia per produrre che tipo di pezzi? Ma guardi, adesso il limite tecnologico è un po' la dimensione, perché, come abbiamo detto, i materiali disponibili sono molti, dal titanio, come dicevo, alle leghe base nickel. E il problema è la dimensione. Diciamo che tutto ciò che sta in un, più o meno in un cubo 300x300x300 mm. Noi in questo momento siamo che concentrati... Che sono 30 centimetri, giusto? Che sono 30 centimetri, sì. Noi amiamo, diciamo, il millimetro, ma in sì, realtà sì, è molto più... diciamo un po' più di una spanna, diciamo, per lato. Sì. Diciamo che noi abbiamo iniziato a produrre degli iniettori combustibile, che quindi sono delle parti molto sofisticate, che hanno una geometria molto complessa. Anticipo già, diciamo, quello che mi chiedeva lei, cioè quali sono i vantaggi. Uno dei vantaggi è di poter fabbricare dei componenti con delle geometrie estremamente complesse. Una volta, quando si fabbricavano i pezzi, si pensava di ridurre i sottosquadri, cioè quelle parti del pezzo che sono difficilmente accessibili al macchinario che deve lavorarle. Ecco, in questo caso abbiamo la libertà totale, perché impilando strato su strato possiamo fare, diciamo, sicuramente le cose, diciamo, che la nostra creatività ci porta a immaginare. E quindi facciamo appunto questi iniettori che nei motori moderni, che devono essere a basse emissioni, hanno delle geometrie molto complesse, proprio per riuscire a dosare combustibile e aria in modo opportuno nelle varie condizioni operative. E poi più recentemente, e qui siamo assolutamente i primi al mondo a tentare questa strada, stiamo producendo anche le prime pale turbina di un nuovo materiale che si chiama titanio-alluminio o alluminio di titanio, che è un materiale eccezionale per le applicazioni aeronautiche, perché ha le stesse caratteristiche delle leghe che si usano tradizionalmente per questi scopi, ma pesa la metà. Ah. E quindi ci permette di avere dei vantaggi competitivi eccezionali. Questo è un materiale molto difficile da fondere, da forgiare, quindi molto difficile per fabbricare dei pezzi, ma con queste tecnologie innovative noi stiamo riuscendo ad avere dei risultati molto importanti, perché riusciamo ad avere bassissimi difetti e un costo che riteniamo essere quello giusto per il mercato. Quindi questa è proprio un'innovazione che abbiamo lanciato noi di Avio Aero. È un progetto che è iniziato nel 2007 e che sta arrivando ad un compimento, tant'è vero che stiamo già producendo delle pale che il prossimo anno contiamo di installare sul primo motore. Stiamo parlando di motori per aeronautici, diciamo gli aerei che tutti noi prendiamo, esatto. Quando montiamo su un aeroplano, quindi molto probabilmente, se non oggi, fra qualche mese o fra qualche anno, quei pezzi, alcuni di quei pezzi, sono prodotti con questo sistema. Esatto, esatto. Ci sono già, diciamo, i prossimi motori entreranno in servizio intorno al 2015-2016, già con delle parti prodotte con queste tecnologie. Per il momento queste tecnologie sono state usate per la prototipazione rapida, e quindi per fare dei prototipi che sono stati utilizzati nei processi di validazione e di qualificazione dei motori. Però ormai questa tecnologia è matura per diventare una tecnologia di produzione su larga scala e non soltanto più per fare dei prototipi. Senta, se noi allarghiamo lo sguardo ai settori del, dicono gli esperti, manufacturing, quindi della produzione industriale nel vostro caso diciamo di prodotti basati sul metallo, sulle leghe metalliche, la stampa 3D, cioè questo sistema di produzione, è già diffuso o stiamo parlando di primissimi casi in assoluto al di là del settore aeronautico? Si parla di pochi casi per il momento. Diciamo che quindi è un'innovazione vera e propria. Guardi, il settore che ha, secondo il mio parere, che ha colto prima degli altri questa possibilità è stato quello, diciamo, medicale. Le protesi, per esempio, gli steli e parti dell'anca, diciamo artificiale, sono stati proprio in titanio, sono stati già costruiti negli anni scorsi, e quindi nel settore medicale questa rivoluzione ha portato dei frutti prima di altri, però diciamo che il settore aeronautico sicuramente in questo momento è uno di quelli più promettenti. Ci sono molti componenti, anche se di dimensioni limitate, perché ritorniamo a quel vincolo di cui parlavo prima, che è di questo momento, verrà sicuramente rimosso nel futuro, ma che comunque impone qualche limitazione. Sono molti componenti che possono essere fabbricati, e soprattutto dove è conveniente usare questa tecnologia e dove c'è o un materiale complesso come quello di cui parlavamo prima, che non si riesce a fondere, non si riesce a forgiare, o dove ci sono delle geometrie talmente complesse che le tecnologie tradizionali non sono adeguate, non sono competitive. Sì, è molto interessante. Possiamo ipotizzare che quando le dimensioni di questi macchinari, che chiamiamo per semplicità stampanti 3D, diventeranno molto più grosse, si potrà stampare addirittura un aereo. Adesso sto esagerando. Beh, diciamo che facciamo un salto di fantasia piuttosto notevole, però diciamo che sicuramente delle parti di aereo molto consistenti non penso che dovremmo aspettare tantissimo per poterle già vedere operative. Sì. Senta, una curiosità, se è possibile dare un ordine di grandezza a me e a tutti gli ascoltatori del costo di una macchina del genere, perché noi oramai lo abbiamo commentato anche nella nostra trasmissione, il costo di una stampante 3D è sceso molto negli ultimi tempi, ci sono anche stampanti tra virgolette casalinghe che possono costare meno di 1.000 euro, in questi casi stiamo parlando di cose invece che costano di centinaia di migliaia di euro. Benissimo. Diciamo che il costo di una macchina utensile sofisticata, ecco, non stiamo parlando di di una cosa molto più costosa di una macchina industriale, chiaramente. Certo. Però mi sembra di capire che poi i vantaggi in termini produttivi di risultato finale sono incredibili. Sono incredibili, e come dicevo, soprattutto nei casi in cui i progettisti hanno liberato la loro fantasia e quindi hanno creato delle geometrie complesse, che però sono quelle che poi tipicamente servono per aumentare l'efficienza, per ridurre i pesi, e quindi per quelle che sono, almeno nel nostro settore aeronautico, le sfide di ogni giorno. Bene, Abrate, io la ringrazio per essere stato con noi, auguro buon lavoro a tutti i dipendenti di Avio Aero, visto che questa è una buona notizia anche per il nostro sistema industriale. Grazie e a presto e buon lavoro. Grazie a voi. Questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24, noi ci fermiamo, riprendiamo tra poco, parleremo di cybercrime e poi abbiamo anche un ultimo capitolo dedicato al compenso per coppie private, visto che c'è questo dibattito in atto, ne parleremo più tardi. 2024. Adesso parliamo di cybercrime, di cyber security, potremmo dire così. Questa settimana il Centro Ricerca su Cybercrime, Cyber Intelligence e Information Security dell'Università La Sapienza di Roma ha presentato il rapporto sulla sicurezza informatica in Italia. centro di ricerca è guidato dal professor Roberto Baldoni, che saluto, benvenuto a 2024. Buongiorno, grazie a lei per avermi invitato. Il rapporto che voi avete presentato ci dice alcune cose che gli esperti sostengono da tempo, ma sicuramente ci fornisce un'immagine della situazione del paese tutt'altro che positiva e per certi versi preoccupante. Sto esagerando? No, sì, credo che è una situazione seria da prendere molto seriamente, ma non siamo, diciamo, alla catastrofe imminente, nel senso che abbiamo una serie di settori che vanno dalle utilities al settore finanziario che diciamo hanno delle difese, hanno messo su delle difese rispetto ad attacchi cibernetici molto ben posizionate anche rispetto ai vari partner europei. Ci sono altri settori come la pubblica amministrazione, ad esempio, che è una parte del sistema industriale che stanno un po' indietro, ma come abbiamo detto all'interno del rapporto, è chiaro che avere una problematica di attacco a una linea elettrica piuttosto che a un acquedotto può arrivare ad essere un problema di sicurezza nazionale o anche di sicurezza europea, visto l'interconnessione delle reti. Il fatto che dei cyber terroristi riescano a entrare dentro a grandi aziende come che fanno Made in Italy, come la Ferrari, Luxottica, Tots o altri, e riescono a carpire quelli che sono i segreti dei processi che vengono portati avanti all'interno di quelle aziende, beh, questo da un punto di vista economico può essere altrettanto dannoso e importante come appunto l'interruzione di una linea elettrica, perché noi potremmo avere una Ferrari low cost o degli occhiali Luxottica che magicamente appaiono in altre parti del globo e nel giro di breve tempo avremo ripercussioni su tutta l'occupazione. Certo, probabilmente queste cose sono già accadute, stanno accadendo e nella migliore delle ipotesi le aziende se ne sono accorte, ma noi non lo sappiamo. Nella peggiore delle ipotesi le aziende stesse che sono state attaccate e alle quali è stata rubata proprietà intellettuale nemmeno se ne sono accorte, questo, esatto, è sicuramente un problema. Assolutamente, anzi io recentemente guardavo un rapporto di una delle, diciamo, organizzazioni specializzate nel settore che analizzava i vari attacchi, chiaramente organizzazione internazionale, i vari attacchi classificati per paese, e all'interno di questa lista notavo che l'Italia non era considerata, cioè non erano diciamo evidenziati attacchi al sistema Italia, visto come aziende, infrastrutture, eccetera, eccetera. Sì. E questo è molto preoccupante, perché ovviamente se gli attacchi sono a livello, diciamo, di ogni paese, il fatto che non ci siano dati sull'Italia è molto preoccupante, perché significa che le aziende magari non denunciano queste cose e pensano di poter risolvere le cose in casa. In realtà queste cose vanno affrontate con un approccio sistemico pubblico-privato. Esatto. Possiamo, è corretto scindere il problema sostanzialmente in due grandi parti, cioè tutta la parte del cybercrime, cyberterrorismo rivolto prevalentemente alle aziende, ma non solo, anche alle infrastrutture critiche, come lei ci ricordava, e tutta quella parte, forse un po' più complicata da combattere, che è, come abbiamo saputo in modo più dettagliato durante l'estate, lo spionaggio da parte di stati sovrani, che, ripeto, forse è un po' più complicato da combattere e diciamo a livello competitivo, non so, forse, non so se è meno importante, però sicuramente di diverso tipo rispetto appunto al furto di proprietà intellettuale che può essere fatto dal cybercrime. Però attenzione, qui c'è un problema. È chiaro che tutte le grandi potenze si stanno attrezzando in questa direzione. Noi adesso abbiamo saputo delle cose da parte dell'NSA, ma poi tutti. Abbiamo anche saputo che molte altre nazioni si stavano attrezzando o si stanno attrezzando o sono già attrezzate in quella direzione. Questo perché? Perché le tecnologie che permettono di analizzare miliardi di dati in pochi secondi sono tecnologie che diventano sempre più alla portata di tutti. Ed è chiaro che se noi un giorno vivremo in un mondo in cui ogni Stato può in qualche modo prendere informazioni e magari lo fa inizialmente per scopi assolutamente meritori, come per esempio prevenzione al terrorismo, quello che accade è che c'è un labile confine tra quello che è poi la sicurezza nazionale e quello che può essere un usare questi dati per diciamo avere delle posizioni di vantaggi economici. Quindi ecco, sono due cose molto legate tra loro e per le quali bisogna prepararsi, perché da una parte l'utilizzo del cyberspace, di internet, permette di avere efficienza, produttività. Insomma, si calcola, il World Economic Forum dà dei dati impressionanti, cioè se uno ha un 10% in più della popolazione connessa si arriva a un aumento del PIL intorno al 2%, ma chiaramente dall'altra parte abbiamo tutte le problematiche di crimine informatico che vengono avanti e che tendono ad abbattere questo 2%. Sì, chiarissimo. Quindi il bilanciamento è fatto lì. Quanto più noi sapremo rendere sicuro questo spazio, e più approfitteremo di questo volano economico. Senti, il fatto che molte delle aziende che offrono sistemi, piattaforme, software, sistemi di sicurezza per proteggerci da tutto quello che abbiamo descritto, il fatto che molte di queste aziende siano americane e israeliane prevalentemente, è un problema? Allora, è chiaro che noi dobbiamo sviluppare in Italia delle competenze da un punto di vista, diciamo, possibilmente di sviluppo di piattaforme, chiamiamole lustrane tra virgolette, ma in alternativa dobbiamo avere quello che gli americani chiamano il mastering completo di queste tecnologie che vengono utilizzate. Cioè è importante capire che se si utilizza dell'hardware proveniente da altri paesi, è importante avere delle competenze per poter capire, diciamo, tutto ciò che questo hardware può fare. Questa è una cosa assolutamente importante. È chiaro che il mercato è globale, quindi certi prodotti si sviluppano in alcune parti del mondo, altri si sviluppano in altre parti del mondo, però noi dobbiamo avere le competenze per poter dominare, diciamo, il prodotto. E ce le abbiamo? Le dobbiamo sviluppare, ne abbiamo, però dobbiamo aumentare, e questo è un appello anche all'università, nel senso che l'università deve muoversi nella direzione di sfornare diciamo più talenti possibili verso le problematiche di cyber security, vedendo queste come una opportunità importante per i nostri ragazzi, uno, di rimanere in Italia e due, di produrre e di fare, diciamo, alta tecnologia qui. Sì. Le chiedo un parere sulla situazione nazionale. Lei prima faceva riferimento ad una collaborazione tra sistema pubblico e aziende. Sicuramente le aziende, ma probabilmente le grandi lo stanno già facendo da tempo, devono proteggersi per evitare che appunto ci sia il famoso furto di proprietà intellettuale che abbiamo descritto prima. A livello di collaborazione di sistema paese, quindi tra il pubblico e il privato, come siamo messi? Allora, certamente c'è stata un'accelerazione a tutti i livelli, quindi non soltanto italiano ma anche a livello europeo, quando sono iniziate a uscire le prime informazioni sul Datagate. E questo ha portato tutti i paesi sviluppati, anche molti in via di sviluppo, a fare delle strategie nazionali. Ad oggi ne contiamo 35, credo, di strategie nazionali per la protezione dello spazio cibernetico. E per quanto riguarda l'Italia, proprio alla presentazione del Cyber Security Report c'era il sottosegretario Minniti che ha annunciato praticamente che entro la fine dell'anno verrà licenziata anche in Italia la strategia nazionale di sicurezza cibernetica, che segue praticamente il decreto sulla sicurezza cibernetica che è stato uno degli ultimi atti del governo Monti a gennaio del 2013. Lì dentro speriamo di trovare tutte le modalità di ingaggio del pubblico con il privato, in maniera tale proprio da stimolare la realizzazione di questi gruppi, come già per esempio in America è avvenuto circa 10 anni fa, subito dopo l'11 settembre. È anche importante capire che la cyber security è un moving target, cioè è un target che è sempre in movimento, e quindi per poter far fronte a questo tipo di minacce non ci può essere soltanto un accordo pubblico-privato, ma deve entrare in gioco anche l'Accademia. L'Accademia con tutta la parte di ricerca che può portare, e i ricercatori italiani in questo settore sono molto bravi e riconosciuti nel mondo, quindi è importante che ci sia in qualche modo un gioco di squadra, un gioco di sistema paese su queste cose, perché nessuno può risolvere il problema in isolamento. Professore, grazie per essere stato con noi, le auguro buon lavoro, a presto. Grazie mille, arrivederci. Adesso noi ci fermiamo per un minuto, questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24, io sono Enrico Pagliarini, vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica se volete scriverci, 2024, quindi 2024 e radio24.it. A tra poco. 2024. Sapete che sono in fase di rimodulazione le tariffe del compenso per coppia privata, sono soldi che tutti noi paghiamo, o meglio molti di noi pagano. Il cosiddetto equo compenso SIA è una maggiorazione sul costo di un apparecchio elettronico che può riprodurre file multimediali, quindi diciamo tutti smartphone, tablet, computer, anche un semplicissimo hard disk, povero hard disk. Allora, la ratio è questa: visto che la legge consente a tutti di fare una copia privata di un contenuto comprato legalmente, per ricompensare l'autore per questa copia che noi facciamo, perché evitiamo di comprare un'altra canzone, un altro film, eccetera, eccetera, viene applicato in modo orizzontale su tutti i dispositivi questa maggiorazione di prezzo, indipendentemente da che poi io questa copia la faccia o non la faccia. Insomma, già questo è abbastanza discutibile. Ma soprattutto molti dicono è un meccanismo che non tiene conto dell'evoluzione tecnologica. Questa settimana è con noi Stefano Parisi, che è il presidente di Confindustria Digitale. Benvenuto a 2024, Parisi. Grazie a voi. Voi siete preoccupati e critici rispetto a quello che sta avvenendo, soprattutto per una questione economica, o c'è anche dell'altro? Ma se sia un tema di impatto economico, consideri che la proposta che ha fatto il ministro Brai è di aumentare del 500% l'attuale importo di questo equo compenso, che non diventa più tanto equo a questo punto. Questo è il primo tema, quindi con un impatto sull'economia di questo settore importante, perché consideri che oggi più o meno, non si riesce a sapere il dato con precisione, però questo, l'eco compenso oggi per copia privata getta qualcosa che è intorno ai 70 milioni di euro l'anno per la SIAE, e con questo aumento, considerando che si modifica anche abbastanza la base imponibile, si aggiungono i televisori, ci sono quindi degli oggetti che verrebbero, a cui verrebbe data questa imposta abbastanza eterogenea rispetto alla base imponibile precedente, però avremmo un gettito che supererebbe i 200 milioni di euro. Quindi c'è un tema di impatto economico sull'economia di questo settore, che sta soffrendo molto in questo periodo ovviamente per la crisi generale che c'è, e poi c'è un tema di principio. È ancora giusto pensare che si debba pagare, che ogni cittadino italiano che compra un telefonino, uno smartphone, una televisione, un DVD, un CD o un PC o un tablet debba pagare per una eventuale copia privata che dovesse fare con questo oggetto, pur non facendola, perché oggi il comportamento degli utenti nel mondo è cambiato molto rispetto a 4 anni fa. Oggi c'è sempre più streaming dei contenuti e non c'è più il download, e quindi la copia privata è sempre più complessa. Se lei ha un contratto, un abbonamento con Spotify o con Chili per il film o con qualsiasi, o con Cubo Vision per il film, quel contenuto, anche se si può fare un download, non si può copiare su un altro supporto. Quindi è un mercato che si sta cambiando in modo consistente, e pensare oggi che c'è una forte riduzione dell'uso della copia privata per questo tipo di prodotti, pensare di aumentare addirittura invece di ridurre, ecco, questo ci sembra veramente un principio negativo, insomma un fatto molto preoccupante. Senta, parliamo prima dell'aspetto economico, poi anche della questione di principio di questo meccanismo che, giustamente a mio avviso, lei dice è anacronistico se guardiamo quello che è successo nel mondo tecnologico negli ultimi anni. Dal punto di vista economico, c'è, dal vostro punto di vista, ci sono margini di dialogo con il ministro, con il ministero, o pochi? No, quando abbiamo incontrato il ministro ci ha detto ragioniamo un attimo e cerchiamo di capire come, però nello stesso tempo, non so, per il momento non sono molto fiducioso, ho visto il ministro molto determinato a volere questo tipo di imposizione. Abbiamo visto in questi 2 giorni ultimi arrivare in Parlamento 2 emendamenti alla legge di stabilità che congelano, nel senso che fissano questo forte aumento, e addirittura, cosa ancora più grave, che anzi io ritengo gravissima, prevedono questi emendamenti, che io mi auguro che il Parlamento non approvi, che il 50% di questo gettito vada alla SIAE, ma che l'altro 50% vada alle politiche per la cultura. Quindi si tratterebbe, se passasse una norma di questo tipo, questo equo compenso diventerebbe proprio una tassa. E allora tassare il digitale per finanziare la cultura mi sembra veramente oggi fuori dal mondo. Cioè oggi c'è una grande alleanza tra tecnologie digitali e cultura, entertainment, cinema, musica, perché si è capito finalmente nel mondo della cultura che il digitale è una grande opportunità. Solo in Italia andiamo con la testa guardando al passato, andiamo indietro. Ecco, quindi la preoccupazione, sicuramente il ministro ha dato disponibilità a una riflessione, per il momento i segnali che sono arrivati sono abbastanza di rigidità, insomma. A proposito invece di principio, esistono delle proposte alternative per superare questo principio? Ad esempio, ricordo che si cita spesso il caso dell'Inghilterra, che non ha il diritto di copia privata, quindi naturalmente non ha neanche il relativo compenso per copia privata, ma va citato il caso anche della Spagna, che è un paese, oltre che molto vicino geograficamente, anche molto vicino a livello istituzionale, politico, che ha tolto questo meccanismo lo scorso anno. Ecco, si può pensare e si sta pensando a un'alternativa, perché va ribadito, e noi lo ribadiamo sempre, che è giustissimo ripagare, ed è un loro diritto ripagare gli artisti per il lavoro che fanno, ma probabilmente questo non è il modo migliore. Ma certo, guardi, l'alternativa è proprio tecnologica, nel senso che oggi con la tecnologia è possibile digitale, è possibile sapere tutto quello che avviene sul web, sapere quanti sono i consumi, chi tipo ogni emittente cosa emette, tracciare per autore e per editore quali sono i suoi effettivi e trasparenti compensi. Cioè, se la SIAE oggi si dotasse di strumenti tecnologicamente avanzati, ma abbastanza semplici, sono licenze che sono sul mercato, per poter mappare quello che effettivamente quotidianamente, ora per ora succede, ci sarebbe la possibilità di avere una maggiore trasparenza di quello che avviene in SIAE, non più forfettizzazione dei compensi, un vero riconoscimento dei diritti e del compenso vero del diritto d'autore a chi questi diritti detiene, e soprattutto la possibilità di ridurre al minimo tutti i margini di forte inefficienza che oggi ci sono, perché è evidente che una raccolta fatta cartacea con analisi cartacee eccetera porta un costo anche della struttura e della raccolta molto superiore. Tutto questo porterebbe una maggiore efficienza e porterebbe veramente maggiori risorse alla SIAE. Però questo, secondo me, mi scusi se mi dilungo, ma questo va, secondo me, inquadrato in quello che sta succedendo in questi mesi in Italia. Domani l'AGCOM dovrebbe approvare il nuovo regolamento sulla lotta alla pirateria. È stato un grande sforzo che abbiamo fatto noi e Confindustria Cultura, cioè il mondo della cultura e dei contenuti, per avvicinare le nostre posizioni e proporle all'AGCOM. E domani l'AGCOM fa proprio le nostre proposte. In Italia finalmente da domani entrerà in vigore, credo implementata a settembre, una normativa molto efficace, amministrativa, per combattere la pirateria. Questo è un altro elemento molto importante, cioè noi non possiamo prescindere da una politica che stiamo facendo in questo momento di alleanza tra il mondo della cultura e il mondo della tecnologia, che porta a rendere più sicuro la web economy, tutte le transazioni che avvengono sul web. Abbiamo quindi strumenti per combattere la pirateria, tecnologie per avere una vera risposta a quello che effettivamente avviene per un effettivo riconoscimento dei diritti di coloro che li hanno, e un comportamento dei clienti che cambia di giorno in giorno, andando sempre di più verso lo streaming. Queste riflessioni ci devono far portare alla conclusione che possiamo avere più risorse dal mercato trasparente e meno azioni invece di sanatoria, perché questa è una sanatoria nei fatti, in cui si chiude un occhio sulla copia privata e si fa una sanatoria. Ecco, dobbiamo veramente avere è quello che ha fatto la Spagna e quello che ha fatto la Gran Bretagna. In Gran Bretagna c'è una forte azione contro la pirateria e c'è una forte azione delle che lì sono in concorrenza, le Collecting Society, cioè le SIAE, in concorrenza tra di loro, che sono molto più efficaci nella raccolta delle risorse che vanno ai detentori dei diritti. Così si salva la cultura italiana, non con strappi, norme, decreti per cercare di portare soldi pubblici, soldi dei consumatori a forfettariamente a coprire dei disavanzi di bilancio della SIAE. È sbagliato, cioè noi pensiamo che è la logica di fondo che è sbagliata. Bene, Parisi, grazie per essere stato con noi, le auguro buon lavoro e naturalmente buon lavoro anche al Ministero e al Ministro perché possano mettere in equilibrio le diverse posizioni che ci sono attualmente. Grazie, a presto. Speriamo, grazie mille. Adesso noi concludiamo questa puntata, come sempre diamo un'occhiata ai temi che saranno domani sul Sole 24 Ore, su Nova 24, il settimanale di innovazione del Sole 24 Ore. Bentornato a Luca De Biase. Ciao Luca. Ciao a tutti. Allora, partendo dalla copertina, che cosa è dedicata domani? L'articolo di apertura è dedicato a una storia che ci ha mandato Francesco Profumo, una sua idea, un suo progetto. Lui adesso, che è l'ex ministro della pubblica istruzione e ricerca, adesso è presidente l'IREN, che è una multi-utility piemontese. Che sono quelli che si occupano di gas, elettricità, acqua, eccetera, eccetera. Appunto, sì. E questo suo progetto consiste nel trasformare un'azienda che fa un servizio commodity a basso valore aggiunto in una piattaforma per far nascere nuove occupazioni, nuove start-up, innovazione. L'idea fondamentalmente è quella di aggiungere intelligenza ai servizi normali che questa multi-utility offre. Per esempio, racconta dei pali della luce di Torino che con l'aggiunta di sistemi LED con elettronica connessi a internet possono diventare delle centrali di innovazione straordinaria per la rete torinese. Ci aggiunge uno schermo, ci aggiunge un pannello solare, ci aggiunge soprattutto computing, capacità di computing, e intorno a questo discorso costruisce un sistema di raccolta di informazioni, sensori della temperatura e quant'altro, che possono essere utilizzati da chi? Da chi è capace di sviluppare delle idee sopra questi dati. Raccogliere dati che diventano open data e poi possono essere utilizzati da tutti. Da tutti, che, dagli imprenditori che sanno farsene. Leggerò con attenzione, vediamo se mi convince Profumo, che stimo, è una persona in gamba, insomma. Poi che cosa abbiamo? Beh, poi c'è uno strano crocchio di viaggi, perché siamo andati con Pelosi a vedere l'osservatorio astronomico ALMA in Cile, nella pianura a 5000 metri d'altezza, un insieme di parabole gigantesche che consentono di vedere quello che non era mai stato visto. Sul sito, tra l'altro, si potranno vedere le foto delle galassie come si vedevano prima di questo osservatorio e quelle che si vedranno dopo. Poi c'è stata l'Elisabetta Tola che è andata a Grenoble, una città ricerca in Francia dove ci sono, su 160.000 abitanti, 6.000 ricercatori e un lavoratore su due è legato alla ricerca. E poi un bel esempio di come una città può trasformarsi anche grazie ai laboratori. Assolutamente, è in crescita ed è chiaramente una strategia di successo. E poi c'è Rusconi che è andato a Dublino in un indirizzo che non ci ha potuto rivelare. Non si sa dove sia andato, cioè sappiamo che è andato in Irlanda perché abbiamo il biglietto aereo che ci dice che ce lo attesta, ma in realtà lui ha dovuto firmare di non rivelare l'indirizzo dove è andato, perché è andato nel data center della Microsoft, quello dove ci sono milioni di carte di credito, conti correnti, dove c'è tutto il sistema Skype per l'Europa, circondato da una aura di completa segretezza e ovviamente per ragioni di sicurezza. Sì, lo sa solo la Microsoft e la National Security Agency dove e si ora trova Rusconi. E anche Rusconi. Luca, grazie, a presto. Ciao. Questa è la versione podcast di 2024. Grazie come sempre per la vostra attenzione, grazie per averci ascoltato in streaming oppure per aver scaricato il file MP3 della nostra trasmissione. Vi ricordo che oltre a poterci ascoltare in FM, quando andiamo in diretta tutti i giorni, insomma su Radio 24, nella classica modalità in FM, ci sono altre modalità. In buona parte d'Italia, in digital radio, quindi la radio digitale terrestre, sono necessari ricevitori particolari che possono ricevere il DAB, il DAB Plus. Ormai il nostro segnale è diffuso in quasi tutta la pianura padana del nord, dal Piemonte alla Lombardia al Veneto, in Emilia-Romagna, e poi abbiamo coperto tutta la dorsale autostradale da Bolzano fino a Roma. Ci spingeremo oltre nei prossimi mesi, è una rete che si sta espandendo sempre di più. Non solo Radio 24 sta facendo questa opera di diffusione, sta mettendo nuovi impianti e nuove antenne per diffondere il segnale della radio digitale in Italia, ci sono anche quasi tutte le altre emittenti nazionali. Maggiori informazioni le trovate su digitalradio.it. Quindi poi ci sono altre modalità, il canale 700 di Sky via satellite per chi ha Sky, oppure via internet anche tramite le app che possono essere scaricate sia su iOS, Android e altri sistemi che potete trovare sul nostro sito internet. Bene, tutto per questa puntata, io sono Enrico Pagliarini, grazie come sempre per scriverci, per tutte le cose che ci scrivete, alcuni ci tirano le orecchie, altri ci propongono temi e ben venga questo, altri ci fanno i complimenti e noi li ringraziamo sempre. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Ci potete parlare anche tramite Facebook e anche tramite Twitter. Appuntamento alla prossima settimana. 2024. 2024.